ad alta voce. Valentina Carnelutti legge L'ora di tutti di Maria Corti. Quindicesima puntata. Pensai, quanti nomi ha? Don Felice, Sancho, Ayerbo d'Aragona. Avevo sentito tante volte parlare di lui da Manuel, il quale lo descriveva come un vecchio fiducioso nella vita, pronto ogni volta che si presentasse l'occasione a benedire Dio, il re d'Aragona e tutta quanta l'umanità. È una vecchiaia impetuosa, diceva Manuel, che riesce simpatica. Quando mi presentai al Palazzo De Marco, dove aveva sede il comando spagnolo, e chiesi di essere annunciata a Don Felice, l'ufficiale di guardia prima mi squadrò, poi prese a parlare, irritandosi da solo. Diceva che dovevo spiegargli la ragione della visita e che non si poteva andare da Don Felice senza dire prima per quale ragione si voleva andare da lui, e che Don Felice era adelantato delle milizie spagnole, prudentissimo, glorioso, e perciò non aveva tempo da perdere con le donne otrantine. A questo punto fuggii come una gatta dalla stanza, e prima che l'ufficiale uscisse dallo stupore bussavo alla porta di Don Felice e insieme l'aprivo a fessura. Vidi dietro un grande tavolo nero un uomo robusto e corpulento, con una bella fronte da cui partiva una massa di capelli bianchi ondulati. Alzò la testa dalle carte e mi guardò serio. «Buon vespro», dissi entrando trafelata. «Buon vespro», lui rispose stupito. In quell'istante entrò dietro di me sconvolto l'ufficiale. «È entrata da sola», balbettò. «Lo vedo», rispose Don Felice. «Mi è scappata», disse l'ufficiale guardandomi con odio. Don Felice scosse il capo. «Lasciala parlare, vai pure». L'altro fece un inchino e scomparve dietro l'uscio. «Bene, cosa vuoi?» disse Don Felice guardandomi appena con gli occhi del mestiere. Allora dissi d'un fiato: «Chiedo a Vossignoria che mandiate via da Otranto l'ufficiale Manuel López y Rojo». Aggrottò le sopracciglia. «E perché?» «Perché se non lo mandate via lo ammazzo». La sua faccia si spianò e cominciò a guardarmi con maggiore interesse. «Ma tu chi sei?» «Idrusa, figlia di Fu Michele dei Castelli, spescatore». «Aspetti un figlio?» «No, signore». «Ti aveva promesso di sposarti?» «No, signore». «Ti ha abbandonato?» «No, signore». «E allora?» «Mi ha offeso». «Come sarebbe a dire?» «Che è peggio che se mi avesse abbandonata, credetemi, signore». La risposta non soddisfece Don Felice. «Sarà benissimo», disse, «ma non si può mandare all'altro mondo tutti quelli che ci offendono. C'è offesa e offesa, diamine». Io dissi decisa: «Mi ha ferito nell'anima, signore, e anche se la mia anima è di popolana, io non posso lasciarmela stracciare perché è la sola cosa che ho». Don Felice mi fissava. La fronte gli si increspò un momento, stava tornando liscia, quando io dissi: «Per questo non posso più vederlo a Otranto, e perdonate se sono entrata senza permesso. Io vi ho detto tutto, signore, io vi ho avvertito, e perdonate l'incomodo». Prima che lui aprisse bocca feci un inchino, mi girai sui calcagni, fuggii a precipizio nella via e continuai a correre fino alle sabbie della roca matura. Là mi distesi a pancia in aria e non mi mossi per ore. Non pensavo a nulla, ero quasi tranquilla. A notte tornai a casa. L'indomani bussò alla mia porta un soldato spagnolo. Disse che aveva l'ordine da parte di Don Felice Ayerbo di accompagnarmi al palazzo. Don Felice mi ricevette in una bella sala. «Ecco la nostra selvaggia», disse quando entrai. Portava una gonnella attillata del color verde proprio ai cavalieri, calze a braca strisciate e scarpette scure. Sui fianchi, molto larghi perché era un uomo corpulento e sanguigno, una cintura di seta fermata con smalti ad orlo d'oro. Reggeva la borsa pure di seta. Non portava armi né cuffia in capo, ma una zazzera bianca e ben pettinata gli scendeva all'uso antico fino al collo. Aveva occhi chiari, modi da signore, e nonostante la grossa corporatura un passo leggero e pieno di grazia. Era un fatto curioso quello della faccia di Don Felice. Appena la guardavi era la faccia grassa di un uomo vecchio, con le guance molli e tante rughe fitte intorno agli occhi, ma se passavi un po' di tempo a guardarla quella faccia cominciava a mandare luce e gli occhi a sprizzare giovinezza. Dal balcone entrava un suono di campane. «Stavo cercando di capire», disse. di che chiesa sono? Avete tante chiese qui a Otranto. E intanto si accostò al balcone. Dei Santi 40, io risposi. Pensai, dice questo per farmi coraggio. Vieni, guarda Otranto ai nostri piedi. Mi accostai. Sembrava un'altra città vista così dall'alto. Ecco la piazzella, la cattedrale, la curva del porto dentro la quale i colori delle barche e delle vele facevano contrasto col bianco di calce delle case. Lui disse: «Mi è piaciuta subito questa vostra città quando arrivai 2 anni or sono, perché è una vera città di pescatori, di uomini forti, antichi come la terra. Vedi, piccina, se tu entri nel giardino di una villa e trovi che fra prati e aiuole di fiori ben distribuiti nemmeno un'erba grama ha potuto mettere radici, nemmeno una foglia secca marcire in un angolo, tu senti la presenza invisibile di un cuore esperto e vigile che crea tanta armonia. Il popolo trantino che fa zitto le sue cose assomiglia a quel giardiniere. Capisci, vero?» Beh, quello che diceva certo lo capivo, ma che cosa c'entrasse con me, con l'avermi fatto chiamare, quella era un'altra storia. Forse voleva farmi coraggio, gli avevo messo pena, ma forse nemmeno. Del resto in certi momenti non pareva neanche che parlasse a me. Stava lì in piedi e chiacchierava da solo, a voce alta. Doveva piacergli molto parlare, forse gli bastava avere uno qualsiasi di fianco. Eravamo sempre vicino alla finestra e lì mi disse che aveva 6 figli, tutti grandi ormai, e una ragazza dell'età mia su per giù. Mi raccontò delle sue terre in Spagna, dove nascevano i pioppi sopra l'argilla rossa e dove viveva la moglie con i 6 figli. All'alba gli piaceva aprire la finestra, lasciare entrare la prima luce e immaginare i suoi figli immersi in quella luce bianca. Gli piaceva costruire loro un palazzo di luce. Parlava curioso Don Felice, con tante nuvolette, curve e giri di parole che facevano pensare ai gorgheggi degli uccelli. Dietro una parola subito si intrecciavano 100 ricami di altre parole. Una cosa simile non l'avevo mai sentita con le mie orecchie. Quando si mosse e tornò verso la grande sala piena di arazzi, mi indicò con la mano una sedia. «Siedi lì», disse. Io ubbidii. «Teodoro!» gridò. Il vecchio servo comparve sull'uscio. Mi guardò dalla testa ai piedi. «Portaci un po' di marzapani e del vino dolce di Alezio». «Sì, signore», rispose il servo dandomi un'ultima occhiata. Si inchinò, uscì. Tutto a un tratto Don Felice disse: «Quando 2 sono innamorati, si dicono sempre un sacco di cose che per tutti gli altri, tranne che per loro 2, sono delle sciocchezze. A volte, dopo essersi dette a lungo tali sciocchezze, 2 si sposano, a volte si lasciano. La vita è fatta così, ma uno non si sogna di ammazzare per questo». Io tacevo. «Ho preso informazioni su di te», soggiunse. «Mi hanno riferito che hai 22 anni e sei vedova, è così?» «Sì, signore». «Sei giovane», disse, «e sei bella anche. Se tu stai a sentire il mio consiglio, lascia andare Manuel del Rojo per la sua via. Cosa ti importa dove sta? Quello è uno che ha avuto 100 donne. Tu invece puoi trovare un bravo giovane, un bel pescatore otrantino e ricominciare a costruire i tuoi castelli di sogno. Vedi, alla tua età la vita è un meraviglioso giardino». Adesso quel suo parlare a nuvolette cominciava a darmi fastidio. Balzai in piedi. «Non mi va il vostro consiglio», dissi scura. «Non ti rimetterai a scappare, adesso arrivano i marzapani». In quella entrò il servo Teodoro col vassoio pieno di roba e finché si mangiò e si bevve, nessuno dei 2 tornò sull'argomento. «Perché poi, figliola», disse lui alla fine, «l'amore non è la lampada del Santissimo che deve per forza essere sempre accesa. Tu dici: lo ammazzo. Beh, non ti pare di esagerare? Bisogna fare attenzione al fatto che il mondo non è stato creato solo per i cuori che sospirano d'amore. A che servirebbe allora, in definitiva? Il buon Dio, siamo ragionevoli, vuol da noi anche qualcosa d'altro. Hai una madre, tu? È morta. Un padre? È morto. E chi hai allora? Nessuno. Una sorella sposata, Minervino. Ti assomiglia? No, è tutta diversa. Meno male. E lei che cosa sa? Sa che adesso tutto è finito. Non le hai detto quello che hai detto a me? No. Bene. Adesso sai che facciamo? Per un po' di giorni non facciamo niente. Lui è lontano. Prima che torni decideremo. Per adesso tu devi distruggere dentro di te tutta la faccenda, pronao e navata, e tutto il tempio. Capito? E dalli, pensai, con questa maniera di parlare, che significa poi? Vedo che i marzapani ti sono piaciuti, lui disse. Te ne manderò qualche giorno con Teodoro. E tu tornerai a trovarmi, hai capito? Mi dirai come vanno le cose dentro di te. Non solo i marzapani ricevetti da Don Felice, ma un giorno arrivò Teodoro con un bel drappo di seta. Ha detto il padrone che devi passare questi giorni a cucirti con le tue mani un vestito nuovo per quando tornerai al palazzo. E perché? Io chiesi stupita. Perché il mio padrone è buono, è un signore vero. Lui aiuta tutti quelli che hanno bisogno e adesso aiuta anche te. Io veramente non sempre sono contento di quello che fa, dipende. E stavolta? Sì, sì, questa volta fa bene. Ma certi sfaticati a cui dà tanti soldi, dice gli do una spinta perché si sollevino e quelli non si sollevano per niente. Le donne otrantine morivano di curiosità a vedere andare e venire dal palazzo. Si mettevano ferme sull'uscio, qualcuna col piccino in braccio e fissavano la mia porta. Lo so cosa dicevano. Dicevano, ma che vedova è stata? Neanche col lutto stretto piangeva. Poi sempre fuori di casa. Filomena, la moglie di Mastro Natale, mi parlò diretto un giorno. Mi disse, tu, da quando è morto Antonio, sei troppo cambiata. Se continui così, non ci sarà più niente di buono da aspettarsi da te. Perché fai così? Perché non vivi come le altre? Oh, drusa! Io non sapevo proprio che cosa rispondere. Cominciai a tagliare il drappo e passavo ore a cucire, a provare, a fare lattughe di pizzo con nastri. Lavoravo furiosamente, avevo l'anima divisa in due parti ben distinte. Volevo a tutti i costi fare del male a Manuel, magari a tutta la razza dei signori, e nello stesso tempo volevo fare qualcosa di grande. Non sapevo cosa, per l'umanità in generale. Quando Don Felice mi vide ben vestita e acconciata, rimase di stucco. Per la prima volta, io credo, mi guardò con occhi di uomo. Stette un po' zitto. Poi d'un tratto si alzò in piedi, si drizzò tutto sulla schiena ed esclamò: «La vita è piena di poesia». Poi parlò di Manuel. Disse che, se proprio lo amavo, lui avrebbe potuto parlargli e magari, chissà, persuaderlo a sposarmi. «Don Felice, io voglio che lo mandiate via da Otranto». «Sangue di Giuda», rispose, «ma cosa ti interessa dove abita? Se non è più a Otranto, per me è come se fosse morto, come se avesse preso la peste». Scosse il capo. Tacque, e questa era una cosa straordinaria per un uomo pieno di parole come lui. Mi faceva chiamare ogni tanto al palazzo. Si vedeva che gli dava piacere la mia compagnia e io speravo di persuaderlo. Certe volte era di vena e parlava di sé. Diceva che per sua moglie, che era laggiù nella lontana Spagna, e per i figli, lui costruiva il seminterrato, il primo piano, il secondo piano della casa, e questo a loro bastava, non volevano di più. Ma la torre la costruiva un po' alla volta per il suo cuore. Diceva che per un uomo come lui, di 60 anni, a poco tutto quello che la vita aveva dato si allontanava dal centro, si metteva intorno come una cornice, e il vero quadro diventava lui, il suo cuore di 60 anni, che prendeva a battere in un modo nuovo. Si commuoveva quando diceva queste cose e sembrava persino che i suoi grandi occhi color miele si inumidissero. Possibile, pensavo fra me. Aveva un debole per i testi sacri che tirava in ballo nel discorso ogni momento. Anche a proposito di quella storia della torre e del suo cuore di 60 anni, mi diceva che il buon Dio, nella parabola dei lavoratori della vigna, si mostrava proprio d'accordo con lui. Forse che non pagava quelli dell'ultima ora come quelli della prima ora? Il servo Teodoro, che andava e veniva dalla sala, faceva sempre segno di sì col capo a questo parlare del suo padrone, e io li guardavo piena di meraviglia. Mi parevano straordinariamente curiosi. Un giorno arrivò a Otranto il figlio maggiore di Don Felice a fare visita al padre. Era un giovane piccolo e secco, dalle labbra sottili e dalle orecchie staccate. Teodoro non lo poteva digerire perché parlava sempre a suo padre in modo duro e irritato, come io credo che facciano i figli coi padri sentimentali. Allora Don Felice si buttava a parlare con doppio entusiasmo e il figlio dopo pochi giorni se ne andò. Una volta Don Felice mi invitò alla sua tavola. In piedi, davanti alla tovaglia, si fece il segno di croce e con voce solenne pregò Dio che benedicesse me, lui e le vivande. Poi guardò con tenerezza un piatto di polpa di pesce coperta all'uso catalano di biancomangiare e circondata di rugola. Si sedette, un po' staccato dalla tavola per via della sua grande pancia. Lo guardavo mentre mangiava. Con tutti quei capelli bianchi intorno alla fronte, aveva una testa da leone pacifico. Si vedeva che era contento di avermi con lui. A un certo momento disse: «Tu la conosci la storia di Ruth?» «Ruth? Mai sentita nominare?» «Senti, era Ruth della terra di Moab e venne vedova in Israele con la suocera Noemi ed era assai bella, dice la Bibbia. Ma voi leggete sempre i libri sacri?» Don Felice sorrise. «Sono saggi e pieni di poesia. Quei patriarchi che dormivano sulla buona terra umida sapevano pregare e amare grandiosamente. Erano uomini di soddisfazione.» Non so perché mi venne da ridere. «E che successe a Ruth?» chiesi. Lei spigolava nel campo del vecchio Boaz. Le disse un giorno la suocera Noemi: «Lavati e ungiti. Prendi la migliore tua veste e va all'aia. Quando Boaz avrà mangiato e bevuto e se ne andrà fra i covoni a dormire, tu alzerai la coperta che ha addosso, dalla parte dei piedi, e ivi ti metterai a giacere. Ed egli dirà a te quel che tu debba fare.» «E perché si unse?» domandai. «Perché l'unguento era profumato.» «E poi?» chiesi. Ruth ubbidì. Era una mezzanotte stellata e Boaz trovò la fanciulla ai suoi piedi. Disse: «Chi sei tu?» Ed ella rispose: «Io sono Ruth, tua serva. Stendi la tua coperta sopra di me.» Il vecchio Boaz sentì l'odore della notte entrare come un'essenza dalle sue narici ed espandersi violentemente per tutto il corpo. Allora il cuore del vecchio Boaz ebbe paura degli astri che luccicavano tra le foglie delle palme e della grande pianura terrosa distesa fino a incontrare il cielo e cominciò a battere forte. Ed ecco la voce di lei venir fuori dalla notte: «Noemi mi mandò perché tu sei stretto parente.» Ed egli disse: «Tu hai superato la tua bontà, figlia, perché non sei andata a cercare dei giovani, poveri o ricchi. Benedetta sii tu dal Signore.» Così stese la sua coperta sulla fanciulla. Io ero attenta alla storia, ma d'un tratto mi venne l'idea di quello che essa voleva dire. «Ma come?» feci irritata. «E la suocera la mandò da quel vecchio? E perché la Bibbia racconta queste storie?» Don Felice trasalì, fece con la forchetta un grande gesto nell'aria. Boaz da Ruth generò Obed, e Obed generò Jesse, e Jesse generò David, il re, disse solennemente. E intanto doveva essergli venuta una fitta, un dolore improvviso, perché si era fatto tutto rosso e stordito. «Questo si sente male», pensai. «Magari gli viene un colpo.» «Che c'è, Don Felice?» dissi. «Chiamo Teodoro.» «No, no», rispose guardando nel vuoto davanti a sé. Passò qualche minuto e a poco la sua faccia tornò del colore giusto mentre gli occhi si voltavano verso di me. «Io sto bene», disse. Mi sorrise e ripeté: «Sto bene, mangia, mangia, piccina.» Poi, come se continuasse un suo pensiero, disse: «Io, tu, tutti gli uomini vorrebbero un mondo puro, ma la natura non è del nostro parere. Finisce che ci macchia tutti quanti, e la Bibbia, che è saggia, queste cose non le nasconde.» «Ma», pensai fra me. Lui soggiunse: «Io sono vecchio, e poiché ho da morire fra non molti anni, Dio mi concede di essere sincero, con me e con gli altri. Capisci, Idrusa?» «C'è sempre Dio nei vostri discorsi», risposi, e lui sorrise ancora. Ma la cosa più incredibile fu che dopo qualche minuto si mise a mangiare con gusto le tinchie in salsa drogata, cercandosi uno per uno i pignoli sparsi dentro la salsa, ed era nell'atto un uomo diverso, tutto gioviale con cui faceva piacere parlare. Infine venne la torta, di ricotta grassa, mostazzoli napoletani e uova sbattute con la crostata di zucchero e acqua rosa. Cominciai a immaginarmi che ce l'avrei fatta, che un giorno Manuel sarebbe stato chiamato al palazzo e Don Felice, ritto nel mezzo della sala a gambe larghe con la pancia che cadeva fra le gambe, gli avrebbe fatto un bel discorsetto sull'utilità che un ufficiale come lui cambiasse aria, si recasse nel posto tale e tale, il che era meglio per tutti e pace con Dio. La cosa avvenne, infatti. Quel giorno splendeva un grande sole e i rami delle palme davanti al palazzo di Don Felice dondolavano entro raggi di luce quando io giunsi sul portone. Era una di quelle giornate che capitano dopo un forte vento di tramontana che ha fatto pulizia di fino sul mondo. Don Felice mi aveva mandato a dire la notizia e io correvo a ringraziarlo, ma prima di salire i gradini dello scalone vidi Manuel che giusto scendeva per l'ultima rampa. Subito pensai alla fuga, ma lui fu più veloce di me. «Eh no», disse fermandomi per un braccio. Ci guardammo un attimo in silenzio, studiandoci la faccia. «Sei stata tu, vero?» «Sì». «E perché?» «Per non vederti più a Otranto». «Questo l'ho capito, ma perché?» «Tu, Manuel, non sai cosa vuol dire amare. Tu non l'hai saputo mai. Proprio come se al mondo l'amore non esistesse per niente». «Sicché quando partii un mese fa ci avevi già pensato a farmi scomparire». «Sì», dissi. «Ma guarda, e così sei andata da Don Felice. Oh, farai strada». «Non capisci niente», dissi disperata. «Non hai mai capito». Lui alzò le spalle. «Abbiamo avuto delle ore bellissime, Idrusa. Ma a te è venuto in mente di voler fare la sposa, la madre, cucinarmi la pasta, eccetera, eccetera». Mi guardò con attenzione dalla testa ai piedi. «Siamo molto eleganti, ma non ti dona l'increspato». Quando disse così, pensai che l'intero mondo non valesse un guscio vuoto di cozza. «Io ti odio, Manuel», lui rispose calmo. «Questa è l'ultima volta che ci incontriamo, Idrusa, e ci capiterà di ricordarci di questa volta. Vediamo di non dire delle cose stupide». Benché cercassi di trattenermi, mi venne un singhiozzo forte, disperato. «Su», lui disse, «è la regola che queste cose finiscano un anno prima o un anno dopo. Non bisogna prendere niente troppo al tragico, soprattutto». «Signore, i cavalli sono pronti», disse accostandosi il servo. «Hai caricato tutto?» domandò Manuel. «Sì, signore». «Vado a San Cataldo», disse. «Chissà se ci sarà tanto vento come a Otranto e tante burrasche di tramontana». A me pareva che il mondo si fosse capovolto e noi due, che avevamo vissuto le notti d'amore insieme, abbracciati fino all'alba, fossimo adesso due estranei. Il passato si fosse staccato da noi, andato lontano, sparito. «Allora addio, Idrusa. Buona fortuna», lui disse. «Buona fortuna», risposi appena. Ci fissammo in silenzio, senza dire altro. Quando la carrozza prese a muoversi, fui a un pelo dal chiamarlo, dal gridargli «Manuel, resta, io ti amo ancora!» Ma mi feci forza. «No, questo poi no», disse a me stessa. E mi precipitai su dalle scale. «E allora?» chiese Don Felice. «Sei contenta adesso?» I suoi occhi di fanciullo vecchio ridevano. Era curioso questo, perché al momento, certo, avrei dovuto essere io contenta e lui malcontento, ma avevo una grande confusione nella testa e non capivo bene perché succedesse il contrario. Valentina Carnelutti ha letto L'ora di tutti di Maria Corti, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.